do il benvenuto ad Eliana Albertini, fumettista e autrice del suo ultimo lavoro dal titolo Anche le cose hanno bisogno, edito da Rizzoli Lizard. E quindi buongiorno Eliana e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Anzi, ciao, bentornata. Grazie. Ormai sì. Esatto. Allora Eliana, innanzitutto in questo fumetto racconti la storia di Agnese, una protagonista, come dire, un po' strana, almeno vista un po' strana, ma soprattutto racconti la storia di tanti oggetti. Ti va di parlarci appunto della trama del fumetto e del rapporto tra questa protagonista e i suoi oggetti? Sì, allora, diciamo che è stato un fumetto un po' atipico per me da costruire, perché la storia è venuta un po' in divenire mentre lo realizzavo, e quindi è stato un po' un esperimento, ecco. Però è stato molto bello perché comunque ho potuto, cioè anche se la storia ovviamente è inventata, però è stato anche un modo per metterci molto di quello che mi, sì, molti temi insomma per cui sono sensibile, ecco, soprattutto gli oggetti abbandonati, diciamo. E infatti sì, la trama si sviluppa intorno a questa protagonista che si chiama Agnese e fa la spazzina. E lei è considerata un po' strana perché comunque abita in un paese molto piccolo, sempre ambientato in provincia, diciamo, in cui ovviamente fare un lavoro di questo tipo non è considerato proprio il massimo. E quindi il fatto che lei ami fare questo lavoro e la rende automaticamente un po' una persona fuori dagli schemi. Quindi sì, la storia si sviluppa un po' fra il rapporto che ha con la cittadinanza, diciamo, e però al tempo stesso il rapporto molto più intimo che ha con gli oggetti che trova e le cose che raccoglie, in cui viene fuori quasi una sorta di dialogo interiore che lei porta avanti su un diario che scrive, in cui racconta un po' tutte le sue esperienze. Parlavi appunto di temi aticari di cui parli in questo fumetto, e quindi ti volevo chiedere proprio da dove ti è venuta l'ispirazione, perché so anche tramite un po' i tuoi canali social, so che anche a te piacciono, no, un po' gli oggetti misteriosi, sì, che si trovano in giro. Sì. Sì, sicuramente è una cosa che mi piace come tema, e la storia è nata anche un po' dal fatto che con l'idea di realizzare un nuovo libro, comunque banalmente quello che volevo fare era disegnare delle cose che mi piace disegnare normalmente, quindi tutto è nato un po' da questa cosa, e quindi anche l'idea del personaggio. E ho cercato di creare un personaggio che mi permettesse un po' di vivere questa vita parallela, cioè di poter, cosa che magari io non posso fare sempre, cioè di andare in giro e basta, raccogliere le cose che trovo, e attraverso lei, diciamo, ho potuto farlo in questa storia. All'interno del fumetto penso che tu abbia giocato anche molto, diciamo, con le tecniche con cui poi, appunto, poi hai disegnato. Ne troviamo tante, ecco, diverse tra di loro, quindi ti volevo chiedere come mai questa scelta. Sì, allora, la scelta è sempre ricaduta anche un po' sul fatto che, appunto, da una parte è una questione mia di voler fare un libro che avessi proprio il piacere di disegnare. Siccome a me piace normalmente usare molte tecniche, diciamo che non ho un'unica tecnica che uso sempre per tutte le cose, mi piace proprio, in base al tipo di lavoro che devo fare, usare una tecnica diversa, e quindi mi divertiva l'idea che in un libro solo ne potessi usare tante, e al tempo stesso mi sembrava che con il tipo di storia che comunque raccoglie appunto questa mescolanza di oggetti diversi, di pensieri diversi, il fatto che ci fossero tante tecniche poteva restituire anche un po' questa idea di cose, di un po' di confusione tra virgolette, che è sia quella degli oggetti che raccoglie, sia un po' la sua interiore. Certo, anche con i colori hai un po' giocato, perché ci sono intere scene in bianco e nero, mentre altre in cui ci sono appunto dei particolari, diciamo così, che risaltano all'occhio con i colori, o gli oggetti che appunto Agnese trova per strada sono spesso colorati. Sì, infatti ho un po' tra virgolette, un po' diviso queste situazioni in cui magari lei deve rapportarsi un po' col mondo esterno, e quindi c'è un po' un contrasto fra quello che succede a lei, che sono cose molto, pensieri molto liberi, pensieri molto liberi da certi schemi, mentre quello che succede quando lei è inserita nella società, nel tessuto sociale normale, tra virgolette, cioè ho usato il bianco e nero perché comunque determina un po' l'appiattimento di questi pensieri che invece per lei sono molto più liberi. Bene, Eliana, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino il tuo nuovo fumetto, Anche le cose hanno bisogno, e niente, ti ringrazio ancora e ci sentiremo per il prossimo. Grazie mille.